Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. La questione della disoccupazione e della frustrazione giovanile deve essere al centro delle nostre preoccupazioni. Senza aprire loro la strada, rimuovendo gli ostacoli e le incrostazioni che li fermano, non si cresce. Senza giovani non si cresce. Il debito non l'abbiamo prodotto noi, non lo pagheremo, noi non siamo in debito, per cui siamo qua davanti, come hanno fatto a Wall Street, come stanno facendo in tante altre parti d'Europa e del mondo. Noi siamo tenuti quasi come dovere a scendere in piazza per provare a ricostruire davvero un altro modello di società che possa portarci ad aspirare a un futuro dignitoso. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Il presidente Napolitano, il governatore Draghi e i nostri giovani indignati. Abbiamo scelto un accostamento d'impatto per aprire la puntata di oggi. Al di là dei drammatici e deplorevoli fatti di Roma che nulla hanno a che vedere con i temi di cui parliamo settimanalmente, la questione giovani resta al centro dell'agenda. I giovani hanno ragione ad essere indignati, ha dichiarato Draghi. Oggi una puntata che non potete perdere. Vi proporremo una trasmissione speciale sull'Erasmus. Cercheremo di comprendere come il periodo di studio all'estero possa rappresentare un'uscita d'emergenza verso la scialuppa di un impiego fuori dall'Italia una volta conclusa l'università. E c'è un'altra sorpresa in arrivo: il cantautore Ivano Fossati ci racconterà perché ha scelto di dedicare ampio spazio nel suo ultimo album al tema degli italiani che emigrano ma non tornano. E sapete perché? Credo che l'ostacolo maggiore sia il fatto di non avere un protettore, un padrino o una madrina che possa favorire il mio rientro. Francesca Galli, 30 anni, è una ricercatrice nel settore antiterrorismo alla Libera Università di Bruxelles, in Belgio. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. News oggi interamente dedicate al mondo della formazione. L'Italia investe poco per l'istruzione. L'ultimo rapporto OCSE fotografa un sistema che arranca. A scuola e università l'Italia riserva il 4,8% del PIL contro una media del 6,1%. Peggio di noi solo Slovacchia e Repubblica Ceca. Denuncia l'astrofisica Margherita Hack, si deve rinsanguare l'università, in Italia ai giovani non abbiamo nulla da offrire. Avevo due collaboratori brillanti, uno è stato assunto a Parigi, l'altro in Spagna. Entrambi hanno meno di 40 anni, all'estero guadagnano il doppio o il triplo. Intanto in Cina il piano di sviluppo dei talenti, da poco approvato, riconosce la leadership degli studiosi formatisi in Occidente, li definisce una risorsa di vitale importanza e punta al 2% del PIL per i fondi di ricerca fino al 2020. Entro 5 anni lo Zhongguancun Science and Technology Park, la Silicon Valley di Pechino, intende portare al 35% la percentuale di rientro dall'estero degli studenti più dotati. Ben altra atmosfera in Italia. Il quotidiano Le Monde mette il dito nella piaga. In un articolo denuncia come per uno studente straniero che viene nel bel paese, uno e mezzo se ne va. A espatriare sono soprattutto economisti e ingegneri. In Italia, sottolinea Le Monde, un neo titolare di master può aspirare a uno stipendio di 1.054 euro. All'estero la retribuzione sale a 1.568 euro. Ma c'è pure qualche timido spiraglio. L'ultima legge di stabilità ha riservato 400 milioni all'università in aggiunta al bilancio 2012. In Europa il 32% dei 30-34 anni ha un'istruzione accademica, la percentuale scende al 20% in Italia. Le nostre università, promosse nel 92% dei casi dagli ex studenti per la preparazione teorica, ma soddisfano molto meno sul fronte della pratica, lo afferma Bechelo. Nella biennio 2009-2010 oltre 213.000 studenti europei, di cui oltre 21.000 italiani, hanno beneficiato di borse Erasmus, un nuovo record. La Spagna ha inviato il maggior numero di studenti all'estero, seguita da Francia, Germania e Italia. Riscuotono un successo sempre maggiore i tirocini in aziende straniere. Nel biennio ne hanno beneficiato quasi 2.000 studenti italiani. E per i direttori del personale, citati dal Corriere della Sera, una laurea nei tempi con un Erasmus in tasca vale più di un 110 lodi. La fondazione Unicredit and Universities lancia lo Unicredit Study Abroad Exchange Program, 8 assegni di studio destinati ai migliori studenti di 22 paesi, tra cui l'Italia, che intendono trascorrere 6 mesi all'estero presso un'università serba o russa. Bandi aperti fino al 15 novembre, info su unicreditanduniversities.eu. Per l'OCSE sono ancora pochi, in Italia i giovani che si diplomano rappresentano il 70,3% del totale tra gli under 34. Le scuole italiane si aprono al mondo per intercultura, la metà degli istituti ha partecipato ad almeno un progetto internazionale. Raffaele Pirola spiega a Maria Piera Ceci la tipologia di progetti. Stiamo parlando di insegnamento delle lingue, ma anche di scambi internazionali tra studenti o di iniziative che coinvolgono i professori. Magari la situazione non è proprio omogenea sul territorio nazionale, c'è il nord che, specialmente il nord-est, scatta in avanti, mentre il sud, ahimè, arretra. Meno confortante risulta l'indice di apertura delle nostre scuole all'internazionalizzazione, è pari a 37 centesimi. Espatriati, attenzione! Il Comune di Milano lancia il primo censimento online dei talenti all'estero, aperto a tutti gli emigrati. Per partecipare, lavoroeformazioneincomune.it. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: uno specialista in diritti umani alla sede dell'UNESCO di Parigi, scadenza per il CV 26 ottobre, info su unesco.org/employment. Un funzionario per le risorse umane allo European Bioinformatics Institute di Ingston in Gran Bretagna, scadenza per il CV 6 novembre, info su embla.org/jobs. E infine un ricercatore specializzato in radiometria alla sede della IEA nel Principato di Monaco, scadenza per il CV 8 novembre, info su recruitment.iaea.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta al cuore dell'Europa, a Bruxelles, per parlarvi di come proprio grazie all'Europa tanti nostri giovani si sono potuti realizzare professionalmente all'estero. Però nome: Francesca. Cognome: Galli. Età: 30 anni. Città di origine: Brescia. Studi: Scienze internazionali diplomatiche a Gorizia, legge a Parigi e Cambridge. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2002 per Erasmus e poi dal 2004. Per andare dove? A Parigi, a Vienna, a Cambridge e ora a Bruxelles. Perché? Per continuare a studiare e fare tirocini all'estero. Quale lavoro svolgi attualmente? Ricercatrice in diritto penale europeo. Dove? All'Institut Européen a Bruxelles. Tornerai? Vorrei che i miei figli crescessero in Italia. Daft Punk, Aerodynamic, brano che a chi ha oggi oltre 30 anni ricorderà subito la colonna sonora di un film simbolo degli anni universitari, L'appartamento spagnolo, il film che ha reso l'Erasmus un vero e proprio status symbol. Film forse un po' troppo colorito e stereotipato, come ci spiegherà Francesca, ma questo programma europeo è stata sicuramente l'invenzione forse più riuscita di un'unione ancora troppo incompiuta. L'Erasmus mi ha permesso di toccare con mano cosa esiste altrove, di vedere che si può studiare e insegnare in tanti modi diversi. In poche parole, a Giovani Talenti @radio24.it hai efficacemente riassunto il crescere e il formarsi da europeo o da europea, che è il vero merito di questo programma. Francesca, spiegaci nella pratica cosa significa uscire dal nostro piccolo provinciale stivale a 21 anni e vivere da europea. È una bella sfida, è un confronto che dà la possibilità di arricchirsi e capire meglio il proprio paese d'origine, tuffandosi nella quotidianità della differenza. E all'epoca la cosa che mi colpì di più della Francia era soprattutto il grandissimo spirito civico e l'attenzione da parte dello Stato francese per la formazione la propria classe dirigente. Classe dirigente, importante questo termine, abbiamo molto bisogno. Nel 2000 opti per iscriverti a Scienze Internazionali e Diplomatiche a Gorizia, perché questa scelta? Avevo tanta voglia di cambiare il mondo, tanta energia e una forte passione per la politica, e la scelta di Gorizia è stata una scelta romantica per questa idea della diplomazia come l'arte della parola rispetto all'arte della guerra. A Gorizia trovi una città di frontiera e chi ha avuto modo di conoscerla può confermare. L'esperienza universitaria come si è rivelata nel complesso? È un'università molto piccola, siamo 100 studenti selezionati con un esame di ammissione, si crea un gruppo molto coeso, un rapporto molto diretto con i professori. Nel 2002 la svolta della vita, voli all'Institut d'études politiques de Paris. Da come la descrivi, questa rappresenta per te una svolta radicale nel modo stesso di studiare e fare lezione. Spiegaci quali sono stati i punti di forza dello studio Oltralpe. Sciences Po è la scuola di formazione della classe dirigente francese, quindi tra i professori ci sono anche politici, avvocati, magistrati. E le lezioni ex cattedra sono affiancate da seminari in piccole classi dove è necessario partecipare attivamente, dire ciò che si pensa, non aver paura di essere criticati o di criticare. Soy español, francés, inglés, danés. Soy como Europa, un lío, una casa de locos. E beh, sono un lío, una casa di matti l'Europa, ma questo, come spiega il protagonista del film L'appartamento spagnolo, tu sei uscita con una mentalità europea dall'Erasmus, una mentalità dove le identità e i modi di pensare si mischiano, creano una persona nuova. Ci spieghi come pensa un figlio della generazione Erasmus? Dopo l'Erasmus è un po' come se ti fosse tremata la terra sotto i piedi, le tue certezze sono messe in discussione, ma allo stesso tempo se ne creano di nuove in una dimensione diversa che, come tu dici, è la dimensione europea, e alla fine si cresce più solidi. E attraverso l'Erasmus fai uno stage a Vienna al Terrorism Prevention Branch dell'ONU, solo 2 mesi, ma ti cambiano la vita. Perché? A Vienna conosco il diritto penale, che diventerà poi la mia grande passione. Quell'estate stavano mettendo in piedi una banca dati di tutte le legislazioni nazionali che implementano le 12 convenzioni dell'ONU. Non è stato quindi uno stage di fotocopie, ma ho fatto tanta ricerca e ho capito che avevo voglia e bisogno di saperne di di più del diritto e che volevo rivoluzionare la mia vita e il mio percorso di studi. In effetti, tornata in Italia, abbandoni praticamente la strada diplomatica, ti porti sul diritto, tema dell'antiterrorismo, e si verifica l'ennesima svolta. Pensi a una seconda laurea in giurisprudenza, ma in due parole, qual è il problema in Italia? Mi trovo a informarmi per la possibilità di iscrivermi a giurisprudenza e mi viene detto che fondamentalmente avrei dovuto ricominciare dal primo anno di studi, anche perché c'è una certa diffidenza verso chi ha fatto scienze politiche in Italia ancora. E opti per tornare a Parigi, ancora a Sciences Po, per un master biennale in affari giuridici. Qual è la differenza molto pratica che noti nell'insegnamento universitario oltre Alpe? Un metodo di studio assolutamente diverso, molto più interattivo, in delle classi piccole, confrontarsi con gli altri studenti e utilizzare lo studio dei manuali come un sostegno a lato. Ci sono tantissime esercitazioni pratiche e i docenti con cui ti confronti sono professionisti come magistrati ed avvocati che ti portano a capire come la materia viene applicata nella quotidianità. Altri due tirocini tra Londra e Parigi, ovviamente obbligatori, concludi il master nel 2006 e alla fine arrivi addirittura a Cambridge. Per fare cosa? Ho fatto un dottorato in legge. E in uno dei templi dell'insegnamento mondiale scopri i professori che ti seguono passo dopo passo, ti senti responsabilizzata, vieni persino pagata per ogni lavoro svolto al di fuori dell'iter di dottorato, senza contare le borse di studio. Francesca, cosa significa vivere in un paese dove si investe in istruzione per davvero? Cambridge è stato un posto magico. Il professore che ho incontrato è stato per me un mentore, un maestro che mi ha regalato lunghe ore del suo tempo. La cosa bella è che non mi ha mai imposto il modo di vedere le cose, ma grazie a lui il mio dottorato è stato un percorso di crescita veramente maieutico. Dal marzo dello scorso anno, chiuso il dottorato, ti sei spostata in Belgio, libera università di Bruxelles, per un postdoc. Come ti hanno selezionata e di cosa ti occupi? Mi hanno selezionato sulla base del mio curriculum. Bene, oh, che bello sentirlo. Progetto di ricerca che stavo svolgendo a Cambridge, che era assolutamente in linea con quello che faccio adesso. Mi occupo dell'impatto degli strumenti antiterrorismo dell'Unione Europea sulla legislazione e la giurisprudenza degli Stati membri. A soli 30 anni, anziché fare la coda accademica all'italiana, nella speranza che tra altri 20 anni si liberi un posto, già insegni, pur facendo soprattutto ricerca pura. Bene, senza una formazione realmente europea, senza un Erasmus alle spalle, saresti ora in questa posizione? Hai mai immaginato cosa faresti ora in Italia? Probabilmente, se avessi voluto fare ricerca, stare in coda con tanti altri coetanei in attesa di un concorso da ricercatore. Se avessi voluto studiare giurisprudenza in Italia dopo la laurea sarei molto in ritardo, quindi ancora più indietro nella coda, altrimenti avrei fatto probabilmente un concorso pubblico. Che ne è stato dei tuoi colleghi che come te hanno vissuto l'esperienza Erasmus? La maggior parte vive all'estero, almeno il 50% vive all'estero oppure ha vissuto all'estero negli ultimi anni. Il padre insegnava economia, la madre preside a geologia, il fratello poverino aveva una cattedra alla Avellino. Non mi sento esiliata, io non sono fuggita dall'Italia, sono partita per curiosità, per voglia di sfide nuove. Il problema sta nel fatto che tornare in Italia è per me ora molto difficile, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Come canta Gappa nella famiglia del rettore, il nostro sistema universitario è un po' particolare. Quali sono a tuo parere gli ostacoli maggiori al vostro rientro? A chi date fastidio? Voi, classe dirigente europea? Credo che l'ostacolo maggiore sia il fatto di non avere un protettore, un padrino o una madrina che possa favorire il mio rientro, e allo stesso tempo si ritiene in qualche modo che non abbiamo diritto ad avere un posto perché non ce lo siamo guadagnato lavorando per un docente per tanti anni, ci siamo addirittura presi il lusso di partire e ora pretendiamo di tornare magari prendere il posto di chi si è sacrificato. Francesca, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Io guardo l'Italia dall'estero con tanta malinconia. Il paese mi sembra un paese molto ricco di grandi talenti e di risorse che sta lentamente affondando. È un paese statico e molto chiuso su se stesso, imprigionato dalle piccole meschinità e dai corporativismi, perché ciascuno alla fine pensa al suo orticello. Per cambiare penso che bisogna chiedere ad ognuno di noi uno sforzo per rendersi conto che c'è un modo diverso di fare le cose, che bisogna tornare tutti a fare bene il proprio lavoro. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesca Galli, 30 anni ma già una vita da europea a pieno titolo alle spalle, laureata in scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia, un Erasmus rivelatore a Parigi che le dischiude gli orizzonti del lavoro all'estero. Francesca frequenta prima un master in affari giuridici e giudiziari al prestigioso Institut d'Études Politiques di Parigi, poi un dottorato all'Università di Cambridge in Inghilterra. Ora è un'esperta di politiche antiterrorismo, grazie grazie all'Erasmus, tema al quale dedichiamo la puntata, ha potuto conoscere e approfittare dei vantaggi dell'integrazione europea. Le resta un cruccio in prospettiva. Un ritorno professionale in Italia resta molto difficile. Ci raggiunge ora in linea Francesco Candelari, coautore del libro Generazione Erasmus, l'Italia dalle nuove idee. Buon pomeriggio. Buongiorno. Francesco, tu non solo hai fatto l'Erasmus nella stessa università parigina di Francesca, 9 anni or sono, ma sei anche tra gli autori di questo libro manifesto edito da Franco Angeli. Tra poco ci arriviamo, prima però ci racconti brevemente la tua carriera internazionale e quanto anche nel tuo caso ha inciso l'Erasmus. L'Erasmus mi ha cambiato la vita. Dunque premetto che io ho una propensione alla dimensione internazionale delle relazioni, insomma già ce l'avevo, però l'Erasmus è stato il salto di qualità in tanti sensi. Insomma, a Parigi ho capito cos'era la politica internazionale, ho conosciuto i suoi protagonisti, mentre all'Università di Torino, dove studiavo, al massimo ho capito come fare una buona bibliografia. Il programma Erasmus nasce nel 1987, subendo varie evoluzioni in più di 2 decenni. In oltre 20 anni ha mosso qualcosa come più di 2 milioni di studenti in tutta Europa, tra loro oltre 250.000 italiani, l'11% del totale. Dove si muovono soprattutto i nostri studenti? Cito a memoria alcuni stati dell'Erasmus Student Network: la maggioranza va in Spagna, circa un terzo, poi c'è la Francia, più o meno 15%, Germania e Regno Unito attorno all'8%, e poi ci sono Portogallo, Belgio, meno i paesi scandinavi e infine l'Europa dell'Est. Il vostro libro presenta una tesi di fondo che sottoscrivo perché è molto suggestiva. La generazione Erasmus è la prima nella storia ad avere ricevuto una formazione veramente europea, confrontandosi fin da giovane con contesti e culture diverse. La prima formata per farsi nuova classe dirigente. Servono giovani preparati e serve una nuova visione con cui confrontarsi, scrivete. Molti paesi in Europa l'hanno capito e valorizzano i giovani della generazione Erasmus. In Italia invece questa classe dirigente vecchia, familistica, ormai dead walking, consuma gli ultimi anni di potere estromettendovi. Perché? Qui mi fai una domanda che c'entra in pieno lo spirito del libro, l'idea di fondo. Io mi vorrei concentrare sul fatto che il nostro libro, oltre a criticare giustamente tutto quello che non va, provi a fare un passo ulteriore e a individuare anche quello che i giovani possono fare per migliorare la situazione. Io oggi mi trovo in Tunisia, domani qui si svolgeranno le prime elezioni libere dopo oltre 20 anni di dittatura. La primavera araba è partita da qui, è stata animata da giovani che hanno rischiato la vita. Quando io parlo di politica con gli amici tunisini o egiziani, sento un'energia, un dinamismo, un senso di responsabilità e di speranza che va assolutamente al di là di quello che possiamo pensare o che posso trovare in Italia. Allora io lo dico abbastanza chiaramente, essere giovani non può essere solo una giustificazione, ma deve anche essere una responsabilità per fare in futuro. Francesco, come una classe dirigente giovane, dalla visione ed esperienza internazionale che rispetta il merito e non solo a parole, potrà cambiare l'Italia modernizzandola per davvero e soprattutto quando glielo lasceranno fare finalmente? Questa è una domanda da 100 milioni di euro. Quando glielo lasceranno fare proprio non lo so, però la novità, se c'è e secondo me c'è, è che molti di questi giovani vorrebbero tornare, vorrebbero poter spendere le proprie energie migliori nel paese che amano e non tornarvi solo per spendervi la pensione che magari avranno acquisito altrove. Quando troveranno la forza e le energie per farlo? Come membro di una generazione spero presto, ma cerco, lo dico anche io onestamente, come individuo guardo più spesso all'estero che in casa. Hai 10 secondi per un appello ai più giovani per motivarli a intraprendere un Erasmus. Vai. Mi limito a dire questo: io di persone che hanno fatto l'Erasmus ne conosco parecchie, ma veramente non ne conosco nessuna che si sia pentito di averlo fatto. Grazie a Francesco Candelari. E ora Francesca Galli, per chiudere, quale consiglio daresti a un coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Penso che bisogna partire, perché da questa esperienza ne possono nascere tante altre che nemmeno ci si immagina, ed è così, è stato per me. Non sai nemmeno cosa ti aspetta e io quest'anno torno a Sciences Po come docente. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi ve l'abbiamo promesso un ospite d'eccezione ai nostri microfoni, il cantautore Ivano Fossati, che nel suo ultimo album Decadencing parla proprio di chi deve lasciare l'Italia. Mi guardo a sinistra, poi guardo verso destra, è tutto quello che ho da vedere. È una frontiera da attraversare con te. Ivano Fossati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Facciamo affare noi due, ci diamo una seconda possibilità. È la sopravvivenza, è un biglietto per andare più avanti. Canti nella decadenza, canzone che ha aperto il tuo ultimo album. Perché hai affrontato questo tema? L'ho affrontato perché l'ho osservato molto, girando per l'Europa in questi ultimi anni. Ho visto sempre più ragazzi dei nostri uscire dalle università o comunque uscire da una loro preparazione e poi trovare lavoro nelle grandi città europee. E con molti di loro ho parlato e la risposta è sempre quella che ci possiamo immaginare. Le loro aspettative qui da noi non avevano sbocco e invece molto più facilmente hanno trovato lavoro e speranza e futuro oltre le nostre frontiere. Tu scrivi: non è vero che doversene andare dal nostro paese ti mette in una condizione psicologica di malessere. Non è più vero. Da un capo all'altro del continente ci sono tanti di noi, molto più giovani di me, che fanno bella figura. Il primo punto infatti è proprio questo: quando vanno all'estero brillano sempre, vero? Non so se brillino proprio sempre, però vedo molta gente che è vero che ci fa fare bella figura, che si impegna, sono quasi sempre delle occupazioni piuttosto alte. È vero che è anche una perdita per il nostro paese, indiscutibilmente. È altrettanto poi che non devono sentirsi sminuiti per avere fatto questa scelta. Tu giustamente metti in evidenza il fatto che è normale ormai spostarsi per lavoro, cercarsi anche una carriera professionale all'estero, però nel termine stesso decadenza in qualche modo suggerisci che qui le cose potrebbero essere diverse per loro. Noi non dobbiamo perdere la speranza nel nostro paese. È chiaro che tutti questi giovani che avranno delle acquisizioni nelle loro professionalità, c'è speranza, insomma, che ritornino, o almeno una parte di loro che ritorni e che queste acquisizioni ce le riporti indietro. Immaginiamo un'uscita da questa decadenza in cui è sprofondata l'Italia, che obbliga troppi giovani a uscire. Non pensare che questo possa essere definitivo, insomma. È vero che i giovani, i ragazzi, devono avere davanti agli occhi un orizzonte più vasto di prima, ma che il nostro paese si debba riprendere da questo passaggio, insomma, che io ho chiamato decadenza in questo disco, è altrettanto certo, con l'aiuto di tutti quanti noi. L'Italia può tornare a essere un paese per giovani? Sì, deve farlo. Per maggiori informazioni www.ivanofossati.com. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.